e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, quando dico che siamo la coppia più bella del mondo, la modestia ti pervade. Lo siamo. Purtroppo, come pochi, chi sono io per smentirti? Nessuno. Coppia allora, che si ricompone, che cosa abbiamo oggi sul piatto? Vuoi anticipare tu qualcosa? Allora sì, per la parte di cuore abbiamo un menù particolarmente ricco, parleremo di prevenzione, poi con il nostro esperto daremo consigli e dritte per vivere meglio questo weekend che ci aspetta, ma parleremo anche di tutti i farmaci del presidente, il suo medico ha fatto qualche intervista, ne hanno spifferato alcune. Sì. D'altronde è un uomo anche molto stressato, Trump, per cui qualche cosina. E dei dubbi sul regime alimentare di Montella. Sì, ci sono, stanno uscendo dallo spogliatoio. Oggi facciamo l'anamnesi a tutti i VIP, insomma. Sì. Ottimo. Per quello che invece riguarda la parte di denari, siccome ieri ero assente, abbiamo trasferito ad oggi, come vi avevo anticipato già mercoledì, la rubrica investire informati, anche se oggi sarebbe più corretto definirla prestare informati, perché parleremo del peer-to-peer, il prestito tra privati, parleremo di queste forme di finanziamento alle imprese che decidono di non andare in banca, ma si finanziano attraverso queste piattaforme. Qual è il vantaggio di farlo? Che dall'altra parte c'è un prestatore, cioè io e te potremmo mettere del denaro in queste piattaforme e ricavarne un guadagno, un rendimento. Sì, esatto, ci sono delle forme nuove, in Italia ancora una piccola nicchia, vedremo se ci sono i margini per vederla crescere in futuro, però intanto oggi spieghiamo come funziona tutto ciò. E allora, ascoltatori, partiamo! Allora, noi apriamo la nostra rassegna stampa di cuore con un numero, il 4, perché domani 4 febbraio è la giornata mondiale contro il cancro e a Cuore Denari giochiamo d'anticipo e ne parliamo oggi con il dottor Armando Santoro, direttore dell'Humanitas Cancer Center e responsabile dell'oncologia ed ematologia all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Buongiorno, ma bentornato. Buongiorno, professore. Buongiorno, è sempre un piacere. Grazie. Allora, you can, I can. Noi possiamo, io posso vincere il cancro. Questo è lo slogan promosso dall'Unione Internazionale contro il Cancro, che è un'organizzazione non governativa che rappresenta le associazioni impegnate contro la malattia in oltre 100 paesi e sostenuta naturalmente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Perché combattere il cancro con la prevenzione si può e ognuno di noi può fare qualcosa, perché ognuno è, come diciamo spesso, è soggetto attivo della propria salute e del proprio benessere. Partiamo da qua. Assolutamente d'accordo, devo dire che un po' bisogna sfatare quell'idea di un fatalismo che mi è venuta la malattia, non è colpa mia, non ci potevo fare niente. Di fatto è vero che tante volte succede anche così, ma è vero che tantissime volte dipende anche la diagnosi di tumore, soprattutto di un tumore in fase avanzata, di nostri comportamenti errati. Non fare un'adeguata prevenzione, che vuol dire non aumentare di peso, non fumare, fare un minimo di attività fisica e giornaliera, certo, è fondamentale per non fare sviluppare tutta una serie di forme tumorali e anche qualora queste arrivano per riuscire ad avere una prognosi migliore. E infine c'è poi lo screening, la prevenzione secondaria, soprattutto per quanto riguarda mammella, cervice uterina, colon in particolare, che è fondamentale per una diagnosi precoce, quindi con una possibilità, con un intervento medico abbastanza limitato, spesso soltanto magari un intervento per via endoscopica o robotica con pochi giorni di ricovero, di poter risolvere definitivamente il problema. Allora, passiamo ai dati, perché in queste giornate si fanno un po' i bilanci. I dati ci arrivano dall'Associazione Italiana Registri Tumori e dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica, che evidenziano che nel 2016 solo in Italia si sono registrati circa 1000 nuovi casi di cancro al giorno. Quindi significa che ogni anno circa 365.000 persone, e abbiamo nel dettaglio 190.000 uomini e 176.000 donne, ricevono una diagnosi di cancro. Però il dato positivo è che in Italia si guarisce di più. Lo confermano gli ultimi dati che ci vedono, dottor Santoro, al vertice in Europa per la sopravvivenza a 5 anni, migliorata rispetto al quinquennio precedente, sia per gli uomini sia per le donne. E questo è un tema che a lei sta particolarmente a cuore, dottor Santoro. Assolutamente sì. penso che sia difficile che non possa stare a cuore a tutti quanti noi. E di fatto è vero che stanno aumentando le forme tumorali, ma perché sta aumentando l'età media della popolazione, gli anziani, gli adulti, gli anziani sono a maggior rischio. Quindi ci dobbiamo aspettare ogni anno un incremento di questo numero assoluto di tumori. Si parla di un incremento che si aggira intorno al 5% per anno, almeno nei paesi occidentali. Ma questo dato è, direi, totalmente superato dai migliori risultati terapeutici, dalla sempre maggiore possibilità di guarigione definitiva, e questo paese spesso maltrattato, devo dire che in senso oncologico, nel campo oncologico, ha da giocarsi le sue carte totalmente. Siamo comunque uno dei paesi che fra i più alti standard terapeutici, probabilmente in generale, io parlo nello specifico in campo oncologico ed emato-oncologico, e tutte le statistiche ci pongono fra la più alta probabilità di guarigione nell'ambito anche di altri paesi occidentali e degli stessi Stati Uniti. Allora, quindi puntiamo sulla prevenzione, ma anche sottolineiamo, dottor Santoro, l'importanza dei controlli. A volte non ci si controlla perché si ha paura, si rimanda, e questo può allontanare il momento della diagnosi. Sappiamo che invece il cancro va preso ancora nelle fasi iniziali, perché è più facile affrontarlo, aggredirlo e anche evitare di avere gli effetti anche delle terapie, quelli insomma più pesanti. Dottor Santoro. Assolutamente sì, nel senso che è vero che abbiamo alcune campagne di screening, però sono limitate, sono per il tumore alla mammella, per il tumore, dicevo prima, alla cervice, del colon, e si discute un po' sulla prostata e sul polmone. Però al di là di queste patologie, dove degli screening sono programmati e vanno seguiti, vanno attuati, non bisogna dimenticare di fare questi controlli già organizzati dal Sistema Sanitario Nazionale, dalle ASL di riferimento, forse anche un'attenzione su tutta l'altra serie di patologie che possono insorgere in altri organi, senza un allarmismo particolare. Avere un disturbo non vuol dire avere una malattia grave o avere un tumore, ma sicuramente non sottovalutarlo, e in caso di persistenza del sintomo rivolgersi prima al proprio medico, che valuterà l'opportunità di controlli più accurati. Una diagnosi precoce significa terapie meno aggressive, probabilmente possibilità di evitare trattamenti post-chirurgici e un'altissima probabilità di guarigione definitiva. Ciascuno di noi deve fare la sua parte. La ricerca ha fatto molto, dottor Santoro, sia per quanto riguarda la diagnosi che anche per le terapie. Quali sono state le svolte di questi ultimi anni? Ma le svolte, parliamo dal punto di vista terapeutico, sono state tante. Io ho cominciato a fare l'oncologo 30-40 anni fa, oggi faccio assolutamente un altro lavoro, adopero altri farmaci, ho un approccio alla malattia che è completamente diverso da quello che era precedente. Ho cominciato che le uniche armi in mano erano chemioterapia e ormonoterapia, poi abbiamo avuto il grande boom delle terapie biologiche, delle terapie a bersaglio molecolare, che hanno cambiato la storia di tantissime malattie, e ora siamo in piena esplosione del nuovo approccio di immunoterapia, che sta dando risultati estremamente interessanti e confortanti in tantissime patologie. La cosa importante dell'immunoterapia è appunto il fatto che sembra funzionare trasversalmente, non quindi nel singolo tumore, ma anche in tumori molto diversi l'uno dall'altro, e questa è una novità rispetto a quanto c'era prima, che avevamo terapie mirate solo per un certo tipo di patologia. Il futuro è roseo, direi, mi aspetto vantaggi e progressi notevoli nei prossimi anni. Dottor Santoro, un'indicazione, un consiglio per chi ha ricevuto una diagnosi di tumore. È una notizia che naturalmente allarma, ci fa perdere un po' i riferimenti, si cerca di andare nel centro, quello più qualificato, si inizia a cercare su internet, si chiede al medico di famiglia, però poi si chiede all'amico, si cerca in tutti i modi di avere tutte le informazioni possibili per accedere alle cure migliori, ma nel frattempo si fanno anche i conti con i tempi, che sembrano sempre lunghi. Ci può dare un'indicazione o anche una rassicurazione? Sì, una rassicurazione assolutamente. Primo, una diagnosi di tumore oggi sempre meno vuol dire una diagnosi drammatica che porta alla morte, ma tantissime volte vuol dire guarigione o lunghissima sopravvivenza, con tossicità nettamente ridotte. Seconda cosa, in genere anche l'attesa di quei 20-25 giorni, che io comprendo che psicologicamente, emotivamente per pazienti e familiari sono drammatici, in realtà non modificano il decorso della malattia, è più un'urgenza emotiva comprensibilissima che non una urgenza medica vera e propria. Poi mi rivolgerei sicuramente a dei centri di riferimento, però teniamo anche presente che il livello medio della sanità italiana è assolutamente buono, e lo dico assolutamente convinto di questa affermazione. Probabilmente quello che manca in molte sedi, soprattutto al centro-sud, è un'adeguata organizzazione, forse un supporto organizzativo che faccia sentire il paziente tranquillo, laddove con una diagnosi comunque importante come un tumore c'è anche quell'ansia e quel bisogno di avere un certo tipo di supporto anche sulle cose banali. Dottor Santoro, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a tutti voi e buongiorno agli ascoltatori. E noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, ritorniamo subito dopo insieme, tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Cuore e denari. Tempo, comunque vadano le cose, lui passa. E se ne frega se qualcuno è in ritardo, puoi chiamarlo bastardo, ma intanto è già andato. Sono le 10.46, facciamo partire da ora il nostro weekend. Mi anticipo. Dai, dico nostro perché il vostro weekend sarà anche un po' mio e di Deborah. Brava. Ho capito, insomma, che la situazione impone un nostro intervento, Deborah. Certamente. Allora, ho preso questa decisione quando ho realizzato che per molti di noi il weekend è una fatica, al punto che, e ce lo raccontiamo tante volte anche io e te, il lunedì ci sentiamo più stanchi di prima, senza considerare che poi nel fine settimana, e tu ti stai un po' avvicinando, ce ne capitano di tutti i colori. Mi hai vista già, tutti gli acciacchi, i dolorini, dal mal di testa, la fatica a digerire, arriva il raffreddore. Nel corso della settimana stavano lì, buoni buoni, li abbiamo tenuti a bada, forse perché avevamo quello stress, l'adrenalina ad andare avanti, e nel weekend, patapumpete, arrivano tutti. Allora, weekend, istruzioni per l'uso. In linea con noi per darci una mano il dottor Massimo Gualerzi, cardiologo, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica e autore di un libro che è diventato un po' una sorta di uno dei miei preferiti, Bibbia, in assoluto. Super salute e la dieta super salute. Buongiorno dottor Gualerzi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, consigli pratici per trasformare un semplice weekend in una ricarica di super salute. La sfida è impegnativa anche per lei, dottor Gualerzi, perché noi ci impegniamo a seguire i suoi consigli. Mettete un like sulla nostra pagina, insomma, diteci se seguite, se siete pronti, ma lunedì racconteremo com'è andata, quindi raccogliamo anche materiali per un altro libro, dottor Gualerzi, un weekend in super salute. Sì, qua ce ne sarebbe da scrivere veramente tante di cose. Diciamo che il weekend per molti è un momento in cui fare un po' tutto ciò che non si è fatto durante la settimana, ma in teoria vorremmo anche passare dei giorni dove si vuole recuperare l'energia e riposare, così spesso finisce che ci sentiamo di non aver fatto ciò che si voleva o al contrario di aver esagerato, quindi risulta frustrante. Quindi diciamo che delle regole precise ci vogliono e nel corso della chiacchierata credo che le daremo. Sì, ma ci darà regole, indicazioni, ma anche trucchetti, vero? Delle scorciatoie. Delle scorciatoie, bravo. Allora, probabilmente passerà un brutto weekend, almeno questo credo io, Harold Bornstein, la pronuncia sarà sbagliata, no, ma no, la leggete sui giornali, da tempo medico del presidente Trump, perché il New York Times, mettendo insieme tutte le sue informazioni che lui, il dottore, ha dato in diverse interviste, ha pubblicato un lungo articolo in cui si legge che il presidente assume un antibiotico per controllare la rosacea, che ne abbiamo parlato tante volte, è un problema della pelle, delle statine per contrastare gli alti livelli di colesterolo e trigliceridi, prende poi un farmaco a base di finasteride usato per l'ipertrofia prostatica, anche per combattere l'alopecia androgenetica, che è la caduta dei capelli, e questa motiva probabilmente il livello estremamente basso del PSA, ma può contribuire anche a spiegare il ciuffone di Trump su cui si discute sempre, sarà vero, sarà finto, lui dice che sono veri, adesso insomma probabilmente anche questo farmaco fa i suoi effetti. La Casa Bianca naturalmente non ha confermato le informazioni, non ha voluto precisare neanche se Bornstein sia ancora il medico personale di Trump, ma dottor Gualerzi l'avrà letta sicuramente anche lei, le sarà caduto l'occhio su questa notizia. Ipotizziamo temo che Bornstein venga licenziato dalla Casa Bianca, lo silurano e dicono prendiamo quel dottor Gualerzi che è sempre a cuore denari, che è così bravo, soprattutto mette a posto tante cose proprio partendo dall'alimentazione, dall'attività fisica, e le affidano Trump. Da dove sì, comincia? Ecco, da dove lo accetterebbe? Diciamo, speriamo di riuscire ad approdare negli Stati Uniti, ma credo che per noi adesso ancora non c'è problema, giusto? Comunque, sì, esatto. Infatti, il bando per noi ancora non c'è. No, diciamo che sì, allora, ci sono cure più naturali anche per quello che viene fatto. Iniziando dalla rosacea, diciamo che per chi non lo sa, un arrossamento della pelle del viso solitamente localizzato nella zona appunto centrale del volto, dove diciamo l'infiammazione della scintilla a vedere qualche capillare, quindi abbastanza diciamo brutta anche da vedere, nel senso quindi la gente corre abbastanza ai ripari. Però quello che vogliamo dire è che questa malattia, che apparentemente sembra localizzata alla pelle, è una malattia vera e propria dell'infiammazione di tutto il corpo, quindi questi noduli infiammati non sono solamente localizzati nella cute, ma è un'infiammazione di tutto il corpo. Quindi diciamo che per Trump la vedo male in questo periodo, perché l'infiammazione, se è vero che lo stress genera infiammazione, credo che in questo periodo avrà abbastanza alimentato la sua rosacea. Non è che gliela gufiamo, no, però diventerà rosso come un peperone. Un rosone gigante. Un rosone, sì, un rosaceone, che poi con il ciuffo arancio diventa insomma un po'... Insomma, sicuramente lo si vede, oltre sì, che a sentirlo. E per la rosacea lei che cosa di Trump, e quindi magari di qualche nostro ascoltatore che è in linea e che vuole essere informato, che cosa suggerirebbe? Beh, essendo io tra l'altro anche direttore delle terme di Fabiana Salso Maggiore, sicuramente non posso che suggerire un bel weekend alle terme, ma non solamente le nostre, diciamo che le terme italiane con le acque sulfure in generale dove che si trovano hanno un'azione assolutamente lenitiva della cute, ed è uno dei trattamenti più antichi ma ancora più efficaci, spesso dimenticati, per queste affezioni cutanee. Diciamo che sempre per tornare all'italianità, quindi per portare a Trump un po' anche di terapie italiane sempre naturali, diciamo che è molto efficace sicuramente l'olio d'oliva, quindi con un batuffolo di cotone l'olio d'oliva, spalmarlo in queste zone sul volto, hanno un'azione attraverso gli acidi grassi, polinsaturi, attraverso queste sostanze, di avere un'azione lenitiva e calmante e anche riparatrice della cute. Quindi due consigli molto tranquilli, e nello stesso tempo gli facciamo anche passare un weekend alle terme, che forse dai, a proposito di weekend, intanto tenetevi pronti, raccontateci qual è il problema del vostro weekend, o che cosa fate nel weekend, che cosa vi aspettate da questo fine settimana, e il dottor Gualerzi vi darà il consiglio per arrivare poi lunedì freschi e riposati. Ma mi hanno incuriosito naturalmente anche le statine che deve prendere Trump. Ne avevamo già parlato, perché i livelli del suo colesterolo erano già venuti fuori in campagna sì, elettorale, e prontamente con Deborah ci avevamo fatto una puntata. Sì, devo dire che fa bene a curare i propri livelli di colesterolo, e da cardiologo devo spezzare un po' la lancia anche a favore delle statine, per quanto io mi occupi anche molto di terapie alternative naturali, però la gente molto spesso conosce gli effetti collaterali dei farmaci più che degli effetti positivi. Devo dire che quando c'è la giusta prescrizione, questo è un salvavita e quindi va utilizzato anche a discapito delle volte di qualche effetto collaterale. Devo dire tuttavia che un corretto stile di vita può ridurre il colesterolo anche del 10-15% semplicemente mettendo a posto un po' la dieta, quindi non poco, e quasi pari di molte terapie anche diciamo farmacologiche. E devo dire che, per dire, oltre ai soliti le solite cose che abbiamo sempre detto, come il riso rosso fermentato, la berberina oppure il tè verde, che sono tutte sostanze che contribuiscono ad abbassare il colesterolo, mi piace ricordare un recente lavoro che è stato pubblicato appunto su una rivista internazionale, di come la mela, proprio oltre una mela al giorno, oltre a levare il medico di torno, sarebbe in grado anche di ridurre i livelli di colesterolo. Questo grazie ad alcune sostanze come l'acido acetico, la pectina, che si trovano nel suo interno, che contribuirebbero a evitare l'assorbimento del colesterolo e a garantirne un'eliminazione. Logicamente mela kombucha ben lavata. Allora, prende poi la cardioaspirina. Sì, e questo devo dire che anche lì ci sono diversi studi che dicono come il rapporto tra il costo e il beneficio della cardioaspirina sia abbastanza a vantaggio di quest'ultima dopo i 50 anni per prevenire non solo le malattie cardiovascolari. Devo dire che in sede naturale sta avendo un buon successo in ambito appunto della vascolare il ginkgo biloba, quindi una pianta che migliora molto la capillarizzazione, quindi la circolazione del microcircolo, quindi renderebbe anche più fluido il sangue, avendo un'azione analoga. Ah, interessante. Quindi a chi lo consigliamo il ginkgo biloba? A tutte quelle persone che non sono proprio, a cui non è indicata la cardiospirina, in cui è, diciamo, è anche questo un farmaco salvavita, ma chi vuole, diciamo, in giovane età o comunque senza particolari fattori di rischio, mantenere il proprio sangue più fluido, comunque avere una circolazione capillare migliore, quindi tutte le persone che non sono ad alto rischio possono utilizzare questa cura alternativa, sicuramente molto efficace. Sulla finasteride, che ha come piacevole effetto collaterale il ciuffo, vogliamo addentrarci? Ma devo dire che povero lui, nel senso che purtroppo ha anche un'azione, e delle volte è proprio, anzi viene proprio presa nel caso della prostata, per questo è un'azione androgena, quindi anche un'azione sulla riduzione degli ormoni sessuali, quindi se lo prende solo per il ciuffo, viene da dire che forse è meglio avere meno ciuffo e più un assetto ormonale appropriato. Se lo prende, ahimè, per problemi, diciamo, prostatici, è una delle terapie d'elezione, proprio perché bloccando gli androgeni va a inibire la proliferazione delle cellule, diciamo, prostatiche, quindi è un'azione. Quindi in questo caso, tutto rispetto, se lo prende per la prostata, se lo prende per i capelli, ben venga che sarebbe indicato lo facesse per poco tempo, per periodi limitati, se non vuole avere degli effetti molto più pesanti. Allora, Trump l'abbiamo sistemato, ci occuperemo anche del regime alimentare di Montella, sì. E sono, insomma, vengono un po' messi in discussione la dieta soia e kamut, c'è scritto un bell'articolo oggi su Repubblica che ha interessato molto anche Deborah, sicuramente l'avrete letto, ci sono un po' dei passaggi, che cosa mangiare prima, durante, dopo, prima dell'allenamento con i menù. 800 24 00 24, il weekend è anche l'occasione in cui mettiamo magari a tavola qualche cosa o di più sano o più di più ricco e gustoso, esatto. Come la salama da sugo che citata dal nostro amico Paolo di Ferrara, che salutiamo, e Filippo, lui ha già cominciato, Filippo a già la mangerebbe proprio ora, la soia e il tofu, che Filippo, sono le 10, che sono le 10:56. Dottor Gualerzi, subito dopo le informazioni del nostro GR si occuperà di noi. Tra l'altro, una ricerca dice che 2 giorni non sono sufficienti per recuperare. Parleremo anche di questo. A tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Ci siamo tornati insieme ed è quasi finita, non la puntata, perché adesso poi c'è il buono, investire informati. La settimana per alcuni, lo sottolineo, ancora un piccolo passetto, un piccolo sforzo, domani finalmente sabato arriva il momento, non per tutti ma per molti di noi, di riposarci, di fare finalmente quello che più ci piace, dedicarci a noi stessi, alla nostra famiglia, fare sport, non fare nulla, andare al cinema. Già stiamo accarezzando l'idea, ma spesso rimaniamo delusi dal fine settimana e torniamo al lunedì più stanchi di quando il weekend del venerdì. Allora oggi ci facciamo dare una mano dal dottor Gualerzi, che ha già dato dei suggerimenti al presidente Trump. Tra l'altro, questo olio di oliva sul dottor Gualerzi, l'olio di oliva per la rosacea sul volto ha già scatenato i nostri ascoltatori che ci chiedono se può essere sostituito con quello di mandorla, con quello di ricino, con quello di olio di oliva. Questa è la ricetta. Olio di oliva è la ricetta ufficiale. Punto, fine. Allora, non sono permesse delle varianti. Allora, dottor Gualerzi, andiamo a sentire la nostra Vox Populi. Ma guarda, viaggio molto durante la settimana e cercando magari la domenica di riposarmi e di rimanere con la famiglia. Di solito arriva il venerdì piena di idee per, non so, passare il weekend con gli amici, così. Però poi sono troppo stanca, mi rinchiudo in casa, dormo sabato, domenica, e arrivo il lunedì che sto peggio di prima. Ma a me capita spesso di provare un forte mal di testa dovuto allo stress, per esempio, nel weekend. Stando tutto il giorno al lavoro, avendo poco tempo da dedicare alla famiglia, quando mi ritrovo nel weekend stare dietro ai figli, alla casa e tutto il resto, faccio veramente fatica a organizzare tutto e a gestire la situazione. Allora, vi siete riconosciuti, avete riconosciuto il vostro compagno o qualcosa di vostro figlio? Scriveteci, chiamateci, consigli del dottor Gualerzi. Dottore, allora cerchiamo di capire un po' perché per alcuni di noi il fine settimana diventa un po' una trappola, i disagi, i problemi più diffusi, mal di testa, astenia, ma anche frenesia, un po' di malumore. Dottor Gualerzi, regole. Ci sono, allora, le regole ce ne sono tante, in realtà la prima regola è quella di non cambiare troppo rispetto alla settimana. Nel senso che abbiamo parlato diverse volte anche insieme di bioritmi, di ritmo circadiano, dei nostri ormoni come sono abituati a funzionare. È logico che se per soli due giorni iniziamo a alzarsi in maniera molto diversa la mattina, molte ore dopo quello che siamo abituati, anche se siamo andati a letto più tardi, diciamo già questo genera uno squilibrio neuroendocrino che poi può provocare malessere. Malessere che molto spesso viene etichettato come mal di testa. Il mal di testa in realtà ha anche delle origini legate al fatto che siamo abituati a lavorare intensamente tutta la settimana e quindi viene un po' di astinenza da cortisolo, quindi di astinenza da stress. Quindi il weekend non dovrebbe essere completamente passato in ozio, ma anche facendo qualcosa che ci possa stimolare, perché altrimenti è come se chiedessimo a uno che è abituato a bere molte aziende di caffè di smettere immediatamente, questo si sentirebbe subito. Infatti quando non beviamo magari il caffè percepiamo il mal di testa, no? E quindi è sufficiente ridare quella minima quantità di caffeina per togliere il nostro disturbo. Questo vale anche per il weekend, siamo abituati a fare cose tutta la settimana, riempirci la giornata, ecco che non possiamo immaginare di svuotare completamente il weekend, perché questo non va bene, a meno che non abbiamo un'idea di qualcosa, di andare lontano dalla nostra abitazione, di uscire, quindi già intraprendere un viaggio, no, per fare un weekend benessere può generare, in questo caso sì, recupero, perché all'ozio si associa anche il fatto della novità, del nuovo posto, del viaggio e dell'intraprendere un'avventura che è appunto quella del weekend passato in un posto diverso di dove siamo abituati a vivere tutta la settimana. Quindi questa è la prima, le due prime regole. A che cosa dobbiamo aggiungere? Riposarci un po'. Allora, riposarsi, non disdegnerei al weekend, quindi abbiamo detto alzarsi presto e quindi puntare la sveglia. Puntare la sveglia ci vuole un motivo. Il motivo lo diamo subito. Proviamo a mettere in quella zona della mattina dove normalmente restiamo a letto al weekend o dove invece durante la settimana andiamo a lavorare l'attività fisica. Fare attività fisica al mattino dopo aver bevuto sempre, ricordo a tutti i nostri radioascoltatori e anche voi, il nostro bicchiere d'acqua con il cucchiaio di 10 ml, un cucchiaio da cucina di aceto di mele che stimola il metabolismo, mette in moto il nostro organismo, ecco di fare attività fisica, quindi di dedicare le prime ore della mattina invece di stare a letto, di fare attività fisica. Se poi abbiamo bisogno di recuperare, magari non disdegnare quei 20 minuti di pisolino al pomeriggio, che invece facciamo fare ai nostri figli, ma che possono essere molto utili. Ci sono diversi studi che chi si addormenta anche solo per 15 o 20 minuti al pomeriggio genera un benessere molto importante. Questo la pennica deve essere breve. Breve, deve essere un 15-20 minuti. Perfetto. E in questo caso non abbiamo la sonnolenza che viene, invece ci sarebbe se staremmo a letto di più, e nello stesso tempo è un tempo sufficiente perché ciò che abbiamo bisogno è spegnere un attimo la mente, rilassarci. Diciamo che la pennichella fa un po' l'azione della meditazione, no? della pausa, di prenderci una pausa per il nostro cervello. E poi puntare molto sulla colazione. La colazione deve essere uno slancio energetico. Uno slancio energetico senza buffarci, quindi direi di magari se siamo abituati. Ecco, facciamo bene la colazione del weekend, eh? Pronti? Dai, io sono qua che prendo appunti. Vi do uno smoothie abbastanza diciamo semplice, ma nello stesso tempo che è un po' più lento rispetto ad andare al bar e prendere la brioche, quindi dedicare un po' di tempo. E vi posso dire, uno smoothie molto molto semplice e molto carino è prendere del latte di riso e mettere dentro della quinoa in polvere. La quinoa è un cereale che ha molti polifenoli, ha molti sali minerali, ha molti aminoacidi, tutti gli aminoacidi essenziali, quindi è in grado di dare energia e anche struttura al nostro organismo. Centrifugare con qualche cubetto di ghiaccio in modo tale che si monti e poi aggiungere alla fine un po' di frutta secca e di frutta invece fresca, quindi noci, mandorle e un po' di banane, in questa stagione anche l'arancio, e quindi gustarlo. Se vogliamo ci possiamo aggiungere anche un po' di cereali, quindi non so, dell'avena in fiocchi o comunque dei fiocchi di mais, e in questo caso abbiamo riempito la nostra colazione di nutrienti che contengono tutti gli elementi di cui abbiamo bisogno. In questo senso il metabolismo si mette in moto, siamo diciamo stimolati e siamo pronti per affrontare qualsiasi cosa vogliamo fare nel weekend. Quindi questa è la ricetta segreta per attivare il metabolismo nel weekend. Mettiamoli così il titolino, vediamo quanti click i nostri ascoltatori ci regalano. Mi sembra quindi, intanto abbiamo Alessandro dalla provincia di Milano. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Buongiorno Alessandro. Quindi volevo parlare di lei ma anche di Montella, perché la ricetta che mi ha dato il dottor Gualerzi secondo me è molto in linea con la dieta che sta seguendo Montella e che viene un po' messa in discussione proprio perché il divieto assoluto di carne rossa, un trasgressore su Repubblica scrive: se mangio la carne mi alleno meglio. Ecco, sembra che spieghi un po' le defiance, la mancanza di risultati. Dottor Gualerzi, su Repubblica scrivono tutto, ad esempio il no tassativa succhi di frutta e bevande zuccherate, questo gli esperti di Cuore Denari. Rimpiazzati, scrive Repubblica, dal famigerato latte di soia o di cocco, vietato il pomodoro, ma come? Vietato il pomodoro, vabbè. E poi alla vigilia della partita zuppa di verdure e riso basmati o pasta di kamut integrale con ragù bianco di pollo. Il giorno dopo della partita pasta di kamut con pesto vegetale, tacchino alla piastra, e dopo frutta secca e riso venere con carote e piselle o lasagne integrali di radicchio rosso con besciamella vegetale. Allora, Alessandro, arrivo anche da lei. Dottor Gualerzi, dopo Trump e Montella. Sì, Montella, allora diciamo che essere assoluti, no, nelle scelte non è mai un bene, ma non trovo in questo un'alimentazione squilibrata. Nessuna squadra di calcio prima della partita fa mangiare ai propri giocatori la costata. La salama da sugo. Quindi ecco, la salama da sugo. In realtà credo che sia una dieta fatta molto bene, forse adesso ci stanno cercando anche un pochino di scuse visto il basso rendimento delle ultime partite. Poi, in ma realtà, perché lei non è milanista? Io non sono milanista, logicamente. Per questo lo dice così a cuor leggero. Sentiamo Alessandro, quindi allora il dottor Gualerzi dice ok, non è la dieta. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, prima di tutto complimenti alle due persone che ascolto tutti i giorni. Bravo, le amiche del mattino, bravo, lei è un grande buon gustaio. Sono anche simpatiche oltretutto. Sì, anche belle. Vabbè. La mia, anche belle, questo certo. È modesto, aiuta. E umili anche. Va bene, Alessandro, allora no, siamo anche un la po'. Mia dieta, okay? La mia dieta del momento del weekend non varia rispetto alle altre giornate. Il mattino chiaramente la mia dieta è fatta di... Vabbè, non abbiamo tanto tempo, ma insomma lei non varia. Ma la domanda è, deve cambiare o deve stare uguale? No, non cambio, sono sempre uguale, non cambio niente. Rimango sempre così come sono negli altri giorni. Sì. Fa bene, molto, ecco, fa bene o fa male? Fa benissimo per me, va benissimo. Dottor Gualerzi, quindi Alessandro, fedele alla dieta durante tutta la settimana, c'è una ragione per continuare o per cambiare? Che lei che cosa suggerisce? Io dico che non bisogna cambiare drasticamente, bisogna iniziare a fare dei piccoli cambiamenti. Ad esempio un'altra nota è quella del weekend, di prendersi, visto che abbiamo un pochino tutti un po' più tempo, di andare a fare la spesa, un po' perché alla domenica tra l'altro pomeriggio nei supermercati aperti la roba costa di meno, quindi possiamo anche approfittare. Vedi, una notizia alla Cuore Denari. Mi è un po' denarino stamattina, dottor Gualerzi. Giusto, quindi volevo un po' fare un favore a Deborah, direi questa cosa. In realtà non è vero, ma... No, e quindi abbiamo un po' più tempo per leggere le etichette, quindi anche renderci un pochino più conto di quello che stiamo acquistando. Credo che leggere le etichette sia fondamentale e prendere cibi che non stanno semplicemente altezza ad occhi, che fanno guadagnare più i supermercati e meno gli insaluti a noi, ma alzarli un po' in alto, un po' in basso, e prendere anche cibi un pochino più alternativi e fare un po' di ginnastica anche tra gli scaffali. Ecco, così fai ginnastica. Detto questo, dico che non bisogna cambiare drammaticamente, ma ad esempio la colazione, che normalmente durante la settimana viene fatta male, almeno dalla maggior parte degli italiani, circa il 70%, ecco, questa dovrebbe essere proprio l'unica cosa che si cambia veramente. Quindi, ecco, ma noi domani beviamo latte di riso, quinoa in polvere, frulliamo col ghiaccio, le cose. Posso dare, scusami, certo, la parola a Marco, figurati. Poi ti do la parola. No, Marco, ma dopo, dalla provincia di Caserta. Era una domanda per il dottor Gualerzi. Si mette in coda, signora Rosciani. Sulla mia pancake del weekend. Pronto? Marco, buongiorno. Ciao, ciao. Niente, io volevo dire semplicemente, a proposito di prima cosa del bicchiere d'acqua, io lo faccio con limone e zenzero perché mi hanno detto che depura e quello fa benissimo, invece del latte di mandorla, non so, aceto di mandorla, ho sentito. No, qui. Non era aceto di mandorla, è aceto di mele. L'aceto di mandorla non penso neanche che esista. Comunque potremmo dare un suggerimento. Quindi Marco, tu cambi un po' la ricetta. Però due bicchieri, sì, appena sveglio, di acqua con limone e zenzero. Poi faccio nuoto 3-4 volte a settimana e corsa, intensificando nel weekend, e mangio esclusivamente integrale. È integrale perché praticamente le farine bianche, a quanto ho capito, non si sa lo schifo che ci... addirittura lo schifo è troppo. Ma Marco, allora Marco vuole farsi fare i complimenti e noi glieli facciamo, ma io vorrei arrivare alla domanda, perché così anche salutiamo il dottor Gualerzi, che noi siamo pronti anche per la scuola di risparmio, dopo il piacere e il dovere. Marco, dottor Gualerzi. Sì, la domanda qual era del radioascoltatore che non voleva, ho capito? Voleva sentirsi dire, ma probabilmente è una persona che si allena molto. Il limone e zenzero è un'ottima alternativa, l'aceto di mele è ottima, hanno lo stesso effetto sostanzialmente. L'aceto di mele ha qualche vantaggio in più rispetto al limone, ma comunque diciamo che è quasi perfetto. Per chi si allena molto nella fine settimana, perché sennò ci scrivono che non si dice nel fine settimana, nella fine settimana. Vabbè, dottor Gualerzi, per chi si allena molto, ha un'indicazione sulla dieta per chi approfitta proprio del weekend per correre, andare in piscina, andare in bici, e ne fanno di tutti i colori, i camminatori? Ho i suggerimenti per i giocatori del Milan, allora, che sono gli stessi per chi si allena molto nel weekend. Una delle cose che può mancare quando si fanno delle diete troppo drastiche, forse questo è il caso adesso dei giocatori del Milan o comunque rispetto a quello che facevano in passato, è avere un po' di perdita di amminoacidi, di proteine. Quindi nonostante si può fare tranquillamente una dieta vegetariana avendo un buon impatto proteico, il più è sapere dove mettere le proteine e quando. Quindi per dare un consiglio ai nostri ascoltatori che vanno in bicicletta, che corrono e che fanno molto sport durante il weekend, è innanzitutto di idratarsi tantissimo e di bere acqua con sali minerali, sia prima che dopo lo sforzo, perché molto spesso anche il mal di testa dipende proprio dalla nostra disidratazione, soprattutto negli ambienti ventilati in cui che frequentiamo con il freddo fuori nelle nostre abitazioni. E l'altra cosa è quella di mangiare non troppo vicino all'orario dell'esecuzione dello sport, e quindi mangiare carboidrati un'oretta prima di fare attività fisica, e nella fase successiva dedicarsi un pochino di più alle proteine, quindi via libera dopo a pesce. Allora, carne magra, perfetto. O comunque prodotti e noi siamo come si dice belli pettinati a proposito del ciuffo di Trump. Dottor Gualerzi, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, il plancake di Deborah va bene comunque. Ma neanche gliel'ho detto come lo faccio, insomma, no, è che io, siccome Deborah, ho dovuto mettere Marco, al bando un po' di queste farine tradizionali. No, vabbè, ho messo insieme farina di ceci e farina di castagne, è venuta da Dio. Brava. Dottor Gualerzi. Le è piaciuta? È perfetto. E ha comprato le farine alla domenica pomeriggio. Facendo al un sacco di ginnastica, esatto. Grazie. Grazie dottore. A presto. No, tra l'altro, a proposito degli zuccheri che citavi prima, i succhi di frutta, naturalmente attenti. Hai visto la Coca-Cola che adesso presenta un nuovo piano industriale? Naturalmente faranno grande investimento anche nella provare a dolcificare la loro bevanda, naturalmente provando a eliminare quanto più possibile zucchero. Beh, è un'indicazione che stanno un po' seguendo tutti, meno male. Ottimo. Allora, andiamo adesso alla nostra scuola del giovedì. Oggi di che cosa parliamo? Sarebbe però di venerdì oggi. Esattamente. Grazie per avermelo ricordato, visto che l'ho fatto tanto prima questa specifica e me la stavo dimenticando adesso. Sono un po' confusa, un po' stanca, perché il weekend sta arrivando e mi vedi che sono un po' ballerina. Vai oggi. Di quinoa. Parliamo di prestiti e finanziamenti. Ne parliamo per oggi da un punto di vista speciale, perché vorremmo esplorare una nicchia di mercato che sta provando ad abbandonare la dimensione di nicchia e vorrebbe un po' crescere in Italia. Parliamo del peer-to-peer lending, vale a dire credito alle micro, piccole e medie imprese attraverso piattaforme digitali che vorrebbero sostenere l'economia in alternativa al canale bancario, dando al contempo però delle opportunità di investimento anche ai risparmiatori, che sono loro prestatori di denaro. Chissà se si tratta di una valida modalità per diversificare il proprio risparmio date le incertezze sempre più evidenti dei mercati finanziari. Allora, questo è il tema di cui parliamo nella nostra rubrica, in questo caso spostata al venerdì. Investire informati.